Ore 7 spaccate, belli precisi, capito? Manco gli Eurostar sono così. È un venerdì, fammi guardare dalla scaletta. Venerdì 21 di settembre, anno 2007. Chi vi parla è l'Ariele dalle frequenze di Radio Rock FM, detta semplicemente in amicizia Rock FM, in compagnia del mio regista immancabile Spadino, in compagnia di Roberto Fricantoni, andremo a cominciare la 15ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Ah, mi piacciono questi inizi un po' drammatici, capito? Tra il serio e il drammatico, bene, bene. Sponsorizzo la drammaticità di questo programma. Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, tracu, tra. La tua colazione roll. Quella che dà assuefazione. Pane, burro e rock and roll. Lasciatevi contaminare dalle 7 alle 9, da lunedì al venerdì. Vai che è l'ultima. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Vedremo anche quest'oggi di combinarne qualcuna delle nostre. Intanto l'augurio di una buona giornata. Spadino, quelle tende tirate mi mettono la tristezza, eh? Io voglio vedere questo spicchietto di Milano, altrimenti questo programma non ha attinenza con la strada, con l'asfalto, invece deve essere così. Se tu mi chiudi la finestra, io mi rifletto io e insomma, mi passa veramente la poesia. Tra l'altro ve lo confesso subito, a inizio giornata, stamane mi sono svegliato con un'idea cattiva, molto cattiva, ma ve la spiego dopo, prima iniziamo al volo. Ah, senti qui che roba. Amici, amiche là fuori, se state ascoltando Rock FM, siete fortunati, perché quest'oggi iniziamo così. We come on this loop, John B. My grandfather. John B. said, John B. Beach Boys, che sfuma in maniera veramente, veramente drammatica, da un capolavoro a un Brian Wilson pieno zeppo di droga fino alla punta dei capelli. E un disco meraviglioso, Pet Sound, che capolavoro. Peccato che poi Brian Wilson e soprattutto il suo cervello abbiano fatto una brutta fine. D'altra parte, il rovescio della medaglia delle droghe pesanti, no? Bell'inizio, complimenti, educativo per una stazione radiofonica. Allora, vi segnalo velocemente il nostro numero di SMS, dove potrete entrare in contatto anche questo venerdì con noi. 3351007777. Mentre cancello in diretta le migliaia di spam che continuano ad arrivare ad ariel@radiorockfm.com, e ne approfitto anche per segnalarvi la mia casella di posta elettronica, scopro che non solo io ho avuto una terribile idea questa mattina, ma anche Spadino. Complimenti, siamo in squadra insieme. D'altra parte, dopo una bella settimana passata insieme, il venerdì ci svegliamo tutte e due con due bruttissime notizie, due bruttissime idee. Tenterò di spiegarvi velocemente la mia. Allora, fattaccio personale. Io questa sera ho una serata in terra toscana, a Colle Salvetti, in provincia di Livorno. Non sarò da solo a mettere i dischi, ci sarà anche un collega indigeno, Dome la Muerte, col quale dividerò la console. Io mi sono svegliato stamattina facendo queste due considerazioni. Visto che sono, per quanto riguarda il rock and roll, sono un filo competitivo, e visto che quando devo mettere i dischi e il mio collega non è Max De Rio, quindi non è uno in casa con me, la punto sempre sulla sfida. Per ridere, però insomma ce l'ho questa cosa. E pensavo, mi sembra ingiusto che io a quest'ora della giornata sono già sveglio e lui sicuramente se la sta dormendo, Dome, che dovrà mettere i dischi con me. A. B. Io mi dovrò fare 400 km per andare là e lui no. Quindi questo mi sembra un vantaggio troppo grande nei miei confronti. Quindi secondo me bisognerebbe telefonargli. Spadino, come la vedi? Io lo chiamerei adesso. Se te la senti, guarda, ce l'ho qui il numero di telefono. Così lo svegliamo. Mi sembra, così partiamo ad armi pari, almeno sulla sveglia del mattino. E già gli ho concesso un paio d'ore, perché io sono già sveglio da un tot. La brutta idea di Spadino invece ve la racconto dopo. Quella non dovevi farla, Spadino. Quella non dovevi farla. E prosegue con il rock and roll. All time rock and roll. L'immancabile Bob Seger and the Silver Bullet Band. Still my girl. time, rock and roll, Bob Seger and the Silver Bullet Band. In diretta, ti ho dato il numero, Spadino, l'hai fatto? Ecco qui, libero. Tentiamo di svegliare colui che dovrà mettere i dischi insieme a me stasera. Mi sembra giusto, perché lui deve dormire? È libero. Risponderà mai alle 7:11 minuti primi? Un rocker come Dove la Muerte? Speriamo non dica stupide. Io non garantisco cosa può dire un uomo di quella caratura a quest'ora della giornata, eh? Tra l'altro ieri era a registrare... No, attaccato! Baluba! Non mi piace così. Ma guarda te. Va bene, ci riproveremo. Questa era la mia di cattiva idea. Volete sapere quella del mio regista? Allora, per chi ha ascoltato tutta la settimana, non ricordo se... mercoledì abbiamo mandato in onda una nuova rubrica nella quale il maestro Roberto Fricantoni alla voce, io alla chitarra e il nostro impagabile stegista impagato all'altra chitarra ha interpretato una versione di Hey Jude dei Beatles in italiano. Ecco, Spadino ha avuto la terribile idea di registrarla e ce l'ha pronta. Quindi volendo possiamo rimandarla in onda anche quest'oggi. Adesso io, per sfruttare la democraticità di questo programma, lo chiedo a voi là fuori. Se vi va di risentire Hey Judita, lo strazio di Hey Judita, quindi di Hey Jude cantata in italiano, scrivetemelo al 335-100-7777. Se volete evitare questo scempio, nel senso che preferite passare questo venerdì in tranquillità, segnalatemelo sempre al 335-100-7777. Come si fa nelle migliori trasmissioni, do inizio al televoto. L'ascoltiamo la canzone oppure no? A voi la scelta! Wanna be an angel, you wanna be a star. Wanna play some magic on my guitar. Wanna be a poet, you wanna be my string. You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still lying in my bed. Wanna be color cover magazine, create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Wanna be the singer, wanna be the song. Let me tell you something. You just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, you turn me on. stringete i denti, amici ed amiche là fuori, è l'ultimo giorno della settimana e prima di tuffarci in uno splendido weekend vediamo di affrontare queste due ore mattutine come meglio possibile, dando il buongiorno a Roberto Freak Antoni da Bologna, il nostro rocker di riferimento, che saluta tutti cordialmente. Un caro buongiorno a tutti i radioascoltatori e alle radioascoltatrici, anche ai radioascoltatori, ma soprattutto alle radioascoltatrici, però anche ai radioascoltatori, sì, che salutiamo con l'almanacco. Abbiamo capito il concetto, vada che ce l'aveva sulla punta della lingua, con l'almanacco del giorno che fu, le va di farlo allora? Assolutamente no, ma lo faccio per farle dispetto, DJ Ariele. Sa e le ricordo. Mi diverte tantissimo questa gag. Andiamo avanti. E le ricordo che il 21 settembre, sì, oggi è venerdì, ma certo, il 21 settembre di allora, nel 1924, orgoglio italiano, viene inaugurato alla Einaudi il primo tratto dell'autostrada dei laghi da Milano a Varese. È quella che faccio io. È quella che fa lei tutte le mattine per venire a Rock FM. Sì. La prima autostrada realizzata al mondo. No, orgoglio varesotto. E noi c'avevamo l'autostrada e voi andavate in giro in carretto a Bologna. Ah sì? Sì, sì. Ah veramente? Può essere, era 1924. Se è la prima autostrada. Allora sa cosa faccio? Sa cosa le dico? Adesso non so cosa risponderle, ma mi documenterò su un record bolognese. Lo attendiamo. Tra l'altro io ho preso il record varesotto, sarà sicuramente milanese, però se arrivava a Varese anche noi c'entriamo qualcosa. Ma sa chi ha inventato i tortellini? Chi? Sa chi ha prodotto le lasagne? Chi? Un bolognese. I bolognesi. I bolognesi, sì. Uno stereotipo veramente pietoso sul quale glisserei e passerei al 21 settembre del 1952. Ci trasferiamo da Varese in California. Laddove Florence Chadwick, io credo si pronuncia Chadwick, è la prima donna, anzi chiedo aiuto a Mike Bongiorno. No. Florence Chadwick è la prima donna, è vero, ad attraversare a nuoto lo stretto di Catalina. O Catalina, per essere più anglosassoni. Forse sa anche quanto ci impiegò. Ma naturalmente, lo so perché inglese, lo leggo, sì. Ci impiegò 13 ore, ecco qui, sì, 45 minuti, sì, e 32 secondi. Record assoluto della buona Florence Chadwick. Buongiorno, esca dal corpo di quest'uomo e passiamo al 1972. Laddove viene presentato nelle sale cinematografiche delle maggiori città italiane il film Padrino, Il Padrino. Faccio una proposta. Che non può rifiutare. Ehi, cos'è che diceva? Ehi, tu ce l'hai con me? È il padrino o no? Non è il padrino, non c'entra un cazzo. E allora basta. Beh, però era interpretato bene, con pathos, mi era piaciuto. Sì, era piaciuto. E allora quasi quasi andrei con l'ultima notizia di quest'oggi. Ah, è da data 21 settembre, ma del 1995. Ah, sì, sì, sì. La leggerei normale, se fosse possibile, perché così fa proprio schifo. Andiamo normale. Ma anche, normale. Ma anche normale, ma sempre un po' schifo. 1995, il miracolo indù del latte. Colpo di scena. Sentite qua. Nel quale delle statue raffiguranti la divinità induista di Ganesh. L'elefante. Sì, direi l'elefante, con la proboscide. L'elefante con la proboscide. Cominciarono a bere latte, no, quando vennero avvicinate alla loro bocca, sì, dei cucchiaini contenenti appunto il fantastico latte stesso. Sai che mi piace un sacco questo miracolo? È un miracolo contrario, sì, ai quello, nostri, sì, a quelli cattolici dell'Italietta. Esatto. Cioè da noi le statue piangono sangue, lì si bevono il latte. Esatto, è speculare, è il contrario. Gli indù offrono... Sai che mi viene un dubbio incredibile? Ma una deve esprimerlo, ma una statua di Ganesh dopo aver bevuto del latte digerisce? E se digerisce che rumore fa? E come si libera una volta digerito il latte? Ma chiudiamo questa cosa, beh, il prossimo approfondimento di pane, burro e rock and roll. Sì, direi di inoltrare la domanda. Intanto io farei all'ambasciata indiana, mentre all'ambasciata vaticana a Milano farei sapere che appoggiamo questo nuovo miracolo. Facciamo bere del latte alle statue, no sangue. Esatto, meno invasivo, sì. Meno invasivo, più tranquillo, più solare. Va bene. Esatto. Viva le statue che bevono il latte. Esatto, nutriamo le nostre statue, perché prendere soltanto, nutriamo noi le nostre statue. Child of Mine, Guns N' Roses. Allora, la mia considerazione è questa: se il telefono era libero, vuol dire che comunque Dome ce l'ha acceso. Richiama, richiama. Eccolo acceso. Bisogna svegliarlo, questa sera dovrò lavorare con lui in Toscana. Non vedo perché lui deve dormire a quest'ora. Questo lo faccio anche per tutti voi là fuori che siete già svegli, eh. Perché gli altri devono dormire? Se siamo svegli noi, devono essere svegli tutti. Dome, rispondi o mi arrabbio, eh? 7:27 minuti primi. Dai. Se no poi io, lui è tutto fresco, io no. Sempre libero. Marco proponeva: fai così, rimani a casa, eviti di... sì, buonanotte, è andato. Basta, non ci rispondo. Però è libero, gli abbiamo rotto le scatole perché suonava. Non ci vai, eviti di perdere, di fare una brutta figura, non fai 400 chilometri, risparmi la benzina, non inquini, 3 sei un cialtrone. Ciao leggenda Marco. Veloci, in una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo subito. Vi ricordo che potete scegliere voi se riproporre in onda quest'oggi la straziante versione di Hey Giuditta in italiano oppure no. Già sono arrivati i primi voti, tra pochissimo vi faccio sapere come sta andando la votazione. 335-100-7777. I Beatles in italiano, strazianti, sì o no? Mi hanno chiesto di fare uno spot. Uno nuovo. Pane, burro e rock and roll. Vuoi dire che per una volta il prodotto è migliore di quello che dicevate in pubblicità? Ti piace tutto questo, eh? Mi piace invitare la gente a sorridere.